Focus Economia. Con Simone Spezia. Le 17:09 minuti. Buonasera gentili ascoltatori, da Simone Spezia benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. Di che cosa parleremo oggi? Beh, naturalmente torneremo ancora una volta sul tema della spending review, ossia la revisione della spesa pubblica, perché sembrano confermate in gran parte le indiscrezioni che avete sentito ieri e che vi abbiamo raccontato ieri e anche stamattina naturalmente nei nostri giornali radio. E oggi il governo ha incontrato le parti sociali, i sindacati stanno parlando in questi minuti. Tra l'altro la leader della CGIL, Susanna Camusso, ha informato proprio un attimo fa la conferma di quel che dicevamo ieri, ossia che ci dovrebbe essere una deroga alla riforma delle pensioni per poter prepensionare alcuni statali, una deroga appunto alla riforma Fornero per un periodo che va fino al 2013. Vedremo che cosa succederà. Oggi soprattutto sentiremo appunto le reazioni di parte sindacale e anche degli enti locali. Parleremo di assicurazioni perché oggi è stato presentato il rapporto dell'ANIA, che è l'associazione che raccoglie le imprese assicuratrici. Abbiamo intervisteremo il presidente per parlare soprattutto di assicurazioni auto. Diminuiscono gli incidenti, ma crescono i prezzi del 5,8% nel 2011. Cercheremo di capire come mai. Parleremo di una scomparsa importante nel mondo dell'industria, ve l'abbiamo anche raccontato poco fa all'interno del giornale radio, la scomparsa di Sergio Pininfarina, e poi torneremo sulla vicenda dei banchieri inglesi, ossia la manipolazione del tasso Libor, per il quale oggi si è anche dimesso l'amministratore delegato di Barclays, nonché il direttore generale. Quindi tutta la prima linea di Barclays è uscita di scena, presidente appunto, amministratore delegato e direttore generale, con lo scandalo che naturalmente minaccia di coinvolgere altre banche. E sentiremo anche qualche brano dall'intervento del presidente del Consiglio Mario Monti, che c'è appena stato al Senato per parlare delle conclusioni del vertice europeo. Ovviamente toccheremo come sempre il tema dei mercati che oggi sono positivi, anzi in parziale accelerazione negli ultimi minuti. Il FTSE MIB guadagna lo 0,85%, il FTSE All Share quasi un punto percentuale, e vanno un po' peggio le altre borse, in particolare Parigi che guadagna lo 0,46%, Francoforte in realtà guadagna quasi un punto percentuale, mezzo punto percentuale su Londra, e l'America guadagna lo 0,43% sul Dow Jones e un altro mezzo punto percentuale sullo Standard & Poor's 500. Questo il quadro dei mercati. L'euro quota 1,2604 contro dollaro, quindi in rafforzamento. 349-238-6666 per i vostri SMS. Le notizie in breve di oggi. Iniziamo come sempre dalle materie prime. Oro in rialzo a 1602,15 dollari l'oncia, un guadagno dello 0,5%, e apertura in rialzo piuttosto netto anche per il petrolio a New York a 86,56 dollari al barile, un più 3,4%. Ci sono nuove dichiarazioni del Fondo Monetario Internazionale. Gli Stati Uniti restano vulnerabili al contagio derivante da un intensificarsi della crisi nella zona euro. E sempre sugli Stati Uniti, sono stati compiuti buoni progressi per riformare il sistema finanziario, ma restano vulnerabilità, risorse più adeguate dovrebbero essere destinate per completare ed attuare il quadro regolatorio di vigilanza sui rischi sistemici. E però, sempre a proposito di Stati Uniti, è necessario e urgente un piano complessivo e credibile di consolidamento del bilancio, dice il Fondo Monetario Internazionale, perché come sapete gli Stati Uniti hanno anche un discreto problema di debito pubblico. Bisogna rimuovere le incertezze create dal deciso aumento appunto del tetto del debito. Ancora la crisi europea continua in parte, se vogliamo, il gioco chi è il vincitore, chi è il vinto di questo vertice di Bruxelles. Ebbene, oggi sembra essere Mario Draghi. New York Times mostra ottimismo verso le misure anticrisi e dice che la decisione di rafforzare i poteri della Banca Centrale Europea nel tentativo di renderla sempre più simile alla Federal Reserve vanno visti con favore. E il quotidiano, tra l'altro, appoggia l'approccio di Draghi, che si legge ha finora usato il bastone e la carota per riportare tutti nei ranghi di fronte alla crisi. Si conferma poi dal lato di Olanda e Finlandia quel che già vi dicevamo ieri, ossia che non sono in grado di bloccare gli aiuti alle banche spagnole attraverso il fondo ESM, minaccia che era circolata ieri. E sempre a proposito di crisi, l'Irlanda intanto torna ad emettere titoli di Stato e ad affacciarsi sui mercati internazionali a 2 anni dal piano di salvataggio. In un comunicato, l'Agenzia per la gestione del debito ha annunciato per il 5 luglio l'emissione di nuovi bond da 5 milioni di euro con scadenza ottobre 2012, quindi un appuntamento importante che cade fra 48 ore circa. Come si diceva, Robert Diamond, l'amministratore delegato di Barclays, si è dimesso e il consiglio d'amministrazione gli chiederà di rinunciare a circa 20 milioni di sterline di bonus. Chissà se avrà il buon gusto di farlo. E si è dimesso anche Jerry Delmissier, il direttore generale di Barclays. A proposito di questa benedetta, maledetta spending review, Monti dice che sarà in 3 fasi, in arrivo 2 decreti legge. E poi che non servirà una manovra aggiuntiva. Come da indiscrezioni circolate nei giorni scorsi a quel che ha detto il vice ministro dell'economia Vittorio Grilli, è previsto il taglio del 20% dell'organico dei dirigenti e del 10% dei dipendenti. Dice la leader della CGIL Camusso, il governo non getti altra benzina su una situazione molto difficile. Dure reazioni anche dagli altri sindacalisti, in particolare da Angeletti della UIL. E sempre a proposito d'Italia, c'è un dato interessante diffuso proprio poco fa dall'Istat, perché nonostante la crisi i prezzi delle case sono in rialzo, è quello che mostrano i risultati preliminari del calcolo appunto dell'indice dei prezzi delle abitazioni. Fra il 2008 e il 2011 l'indice è aumentato del 2,2%. Della morte, del lutto per la morte di Sergio Pininfarina parleremo tra poco, più avanti, intorno alle 17:40. Nel frattempo dal mondo dell'auto arrivano anche altre notizie, innanzitutto da Fiat, che ha esercitato l'opzione di acquisto da Veba su una quota del 3,3% di Chrysler e sale al 61,8% del capitale. E così come ieri vi abbiamo raccontato del pessimo andamento delle immatricolazioni auto in Italia, così adesso vi parliamo di quello dell'andamento ottimo per quanto riguarda gli Stati Uniti. Le vendite del gruppo Fiat Chrysler hanno fatto registrare un aumento del 20% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. E brutte notizie invece per Peugeot Citroën, che si prepara ad annunciare il taglio di 8-10.000 dipendenti in Francia, pari a circa il 10% della forza lavoro del paese. E ora un paio di notizie, delle nostre solite notizie curiose sulla crisi. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. Allora, voi pensavate che i nostri parlamentari fossero quelli che lavoravano di meno? Pochi giorni di lavoro, tantissime ferie. Ebbene, sappiate che l'agenda ordinaria del Parlamento tedesco prevede che i parlamentari di settimane di ferie ne abbiano 10 addirittura. E però quest'anno gli vengono rovinate proprio dalla crisi. La Bild annuncia che una seduta speciale del Bundestag dovrà tenersi il 23 luglio per esaminare la concessione degli aiuti chiesti dalla Spagna per la ricapitalizzazione delle banche. Allora il presidente del Bundestag ha invitato i parlamentari a lasciare i cellulari accesi e a non allontanarsi troppo dalla Germania per le ferie. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. Escono i dati diffusi dal Corriere della Sera sulla classifica delle multe, dati elaborati dalla Commissione sul federalismo fiscale, che ha definito i costi standard della polizia locale dei comuni. Ebbene, la multa, allora, la media è di 274 euro ogni 1000 abitanti per quanto riguarda le multe. In Liguria si arriva a 618,7 euro, quasi 3 volte la media nazionale, il doppio della seconda in classifica, la Toscana, con 354 euro ogni 1000 abitanti. I 166 comuni liguri considerati sono anche tra i più accaniti utilizzatori degli autovelox per rilevare le infrazioni stradali. La media nazionale è 160 euro e Liguria ha 216 euro. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. E adesso iniziamo col primo argomento di questa giornata. Abbiamo parlato adesso di auto e parliamo di assicurazioni e di RC Auto. Questa mattina a Roma c'è stata la presentazione della relazione annuale dell'ANIA, che è l'associazione che raccoglie le imprese assicuratrici. Tanti dati interessanti, proprio a cominciare da quelli sull'RC Auto. Ne parliamo con il presidente dell'associazione, Aldo Minucci. Buonasera. Buonasera. Allora, sono già cresciute le tariffe nel 2010, anche nel 2011 un più 5,8%. Però calano gli incidenti. Allora, ci spiega come mai? Ma è molto semplice. Gli aumenti del 2010 e del 2011 fanno seguito all'incremento invece del costo dei sinistri che si era verificato rispettivamente nel 2009 e 2010. Faccio un esempio molto semplice. Nel 2005 le imprese spendevano 97 euro su 100 che ne incassavano. Nel 2009 e nel 2010 ne hanno speso rispettivamente 108 e 106. Ogni qualvolta c'è un differenziale tra quello che uno incassa e quello che uno paga, vuol dire che l'andamento del ramo è in netta perdita. È evidente che non si può andare in perdita. Allora, conseguentemente, si è dovuto fare gli aumenti sia per il 2010 sia per il 2011. Però il fatto che la frequenza dei sinistri sia diminuita lo condividiamo e così c'è stata una riduzione del numero dei sinistri del 13%, ma quello che non si sa è che se i sinistri diminuiscono il costo medio dei sinistri però è aumentato del 10% e quindi conseguentemente il costo complessivo si è ridotto del 3%. Questo cosa vuol dire? Se uno va a guardare l'andamento dei primi mesi del 2012, l'incremento, che è poi il retaggio di quelli precedenti, è stato dell'1,4% soltanto. Quindi si vedeva questa naturale tendenza alla stabilizzazione del prezzo dell'auto nel corso dell'anno 2012. Voi avete detto di essere pronti a ridurre i prezzi dell'RC Auto nell'ambito di un'azione, lei ha detto, congiunta e di sistema che aggredisca alla radice quelle componenti strutturali che mantengono elevato questo costo. Ci spiega in termini pratici che cosa significa e che cosa intende? Significa semplicemente che per ridurre i prezzi bisogna andare a ridurre il costo dei sinistri. C'è una stretta correlazione tra andamento del costo dei sinistri e andamento dei prezzi. Quindi se si vogliono ridurre i prezzi bisogna intervenire con interventi normativi, disciplinando delle situazioni diversificate che diversificano il nostro paese rispetto agli altri paesi e che determinano questo strano andamento da noi dei prezzi. Noi abbiamo fatto più volte le proposte per intervenire ed ecco perché diciamo un intervento di sistema. Basta che siano approvate 2 o 3 norme fondamentali e noi siamo sicuri che i prezzi sono destinati a calare significativamente. Se vuole io poi le elenco quali sono questi 3 interventi significativi che se fatti in tempo e sono anni che li chiediamo. Prego, prego, prego, prego. No, la prima cosa fondamentale è il sistema risente molto delle valutazioni che la giurisdizione italiana fa con riferimento ai cosiddetti sinistri con lesioni gravi. Il nostro paese ancora non sono state approvate le tabelle che quantificano e fissano precisamente questi elementi del risarcimento, in particolare il danno biologico, e questo diversifica la nostra situazione rispetto a quelli degli altri paesi, perché i criteri valutativi seguiti dai nostri giudici sono di gran lunga più pesanti rispetto a quelli degli altri paesi. Basta, cioè troppo spesso entra la classificazione di lesione grave, questo ci sta dicendo lei. Più che troppo spesso è che la valutazione del danno fatta dal giudice è troppo alta rispetto a quelle stesse valutazioni fatte negli altri paesi. Siccome sono state già da oltre 6 anni previste le tabelle, queste tabelle di valutazione prefissate sono state già approvate, hanno passato il vaglio del Consiglio di Stato, non si capisce perché non siano definitivamente promulgate. Basterebbe questo fenomeno per dare certezza di costo con riferimento a questi danni delle lesioni gravi, e questo esplicherebbe immediatamente un effetto benefico sulla dimensione dei costi dei sinistri. E questo è il primo elemento. Per quanto riguarda gli altri due? Gli altri due elementi sono molto semplici, anche questi. Innanzitutto noi da un paio d'anni che abbiamo suggerito di creare finalmente un'agenzia antifrode, che è un'agenzia contro le frodi di natura pubblica, finanziata interamente dal settore assicurativo, con poteri investigativi. Anche sotto questo profilo ci sono dei ritardi che non mettono in piedi questa struttura, che sarebbe di contrasto fondamentale per le frodi che sono particolarmente numerose in area del nostro territorio e che incidono conseguentemente sull'alto costo dei sinistri. Basterebbe questo secondo provvedimento, basta solo il fatto che viene approvata la norma, che sostanzialmente ci sarebbe immediatamente un elemento deterrente, perché le associazioni a delinquere saprebbero che la persecuzione di questi reati verrebbe fatta con maggiore determinazione. Terzo elemento, anche abbiamo perso un'occasione nel decreto delle liberalizzazioni. Originariamente il decreto prevedeva che si potesse, invece che pagare in denaro il risarcimento dei sinistri, si potesse fare attraverso un'esecuzione che si chiama in forma specifica, cioè andando direttamente presso delle carrozzerie convenzionate. La norma è caduta perché ci sono state delle resistenze molto forti. Cosa avrebbe portato la norma? È evidente che se gli assicurati portano gli autoveicoli a riparare in carrozzerie convenzionate c'è subito un'immediata ricaduta positiva, perché si ridimensionano i costi sia dei pezzi di ricambio sia dei prezzi delle riparazioni, e questo si rifletterebbe ovviamente nei confronti subito dopo sui prezzi. Ecco, queste 3 norme perché ci sia un significativo riduzione dei prezzi. Ecco, a fronte di tutto questo però, chi è preposto alla vigilanza sulle assicurazioni, ossia l'ISVAP, nella fattispecie il presidente Giancarlo Giannini, dice oggi che in realtà non è una questione normativa, dice il tema dell'RC auto non può essere risolto dal legislatore o dall'autorità di vigilanza, e vi raccomanda, dice, le compagnie devono migliorare l'efficienza e fronteggiare le troppe frodi avvalendosi al meglio degli strumenti esistenti. Evidentemente Giannini sembra convinto che di questi provvedimenti legislativi non vi sia bisogno. No, non è questo, donna. Non possiamo mettere sulla bocca di Giannini una considerazione che non è la sua. Lui quello che dice è sostanzialmente bisognerebbe utilizzare gli strumenti già esistenti per contrastare le frodi, ma io ho spiegato più volte al presidente Giannini che non bastano le querele delle compagnie d'assicurazione contro i tentativi di frode, perché poi queste querele devono essere portate avanti da indagini investigative e soprattutto da procedimenti portati avanti dalla giurisdizione italiana, che è già ingolfata da una serie di innumerose di casi. L'altra componente è il suo richiamo a un'esigenza che il settore eserciti dei meccanismi di efficientamento delle loro strutture liquidative. Anche su questo, e non siamo d'accordo con Giannini, non è vero che sono stati fatti interventi numerosi da parte di gruppi assicurativi anche importanti. Io che ho fatto parte di un gruppo assicurativo conosco bene quanti sono stati gli interventi per migliorare l'efficienza. Poi non si fa mai abbastanza e non è giusto dire che non si possa fare ancora qualcosa di più. Questo senz'altro è tra i meccanismi che l'associazione tenderà a promuovere, però è anche vero che in alcune zone del territorio del paese, le assicuro, è molto difficile fare efficientamente delle strutture liquidative, perché chi conosce bene queste realtà sa benissimo che chi esercita l'attività di liquidatore sinistro in determinate zone rischia anche la vita per portare avanti con serietà e metodo le trattative. Quindi occorre essere calati dentro le realtà operative per capire che cosa vuol dire l'efficientamento. L'efficientamento si può fare sotto il profilo del miglioramento delle gestioni informatiche, ma ci sono problemi che si possono incidere e toccare solo con interventi forti sul piano normativo. A chiudere, Presidente, una domanda sulla situazione finanziaria delle compagnie, perché anche questi sono dati che avete diffuso oggi e che per il 2011 sono dati molto pesanti. Si parla di perdite per 3,7 miliardi e un crollo del ROI, return on equity, del 7,2%. Anche il 2012, da quel che si capisce, sarà un anno, come forse era prevedibile, visto che siamo in recessione, molto difficile. Sicuramente anche l'anno 2012 sarà un anno difficile e gli interventi che le imprese devono fare sono particolarmente attenti. È di tutta evidenza che la recessione economica non può non colpire anche il settore assicurativo, perché in primo luogo sulla raccolta incide il fatto che le famiglie, le persone, le imprese hanno meno risorse da spendere e dedicare alla copertura assicurativa, e questo si riflette immediatamente sulla raccolta, tanto è vero che il ramo vita nel corso del 2011 è passato dai 90 miliardi di raccolta del 2010 ai 70 miliardi del 2011. Sotto il profilo della situazione economica, i 3,7 miliardi di perdita che il settore complessivamente dimostra sono tutti imputabili sempre alla gestione vita. La conclusione normale è che incide fortemente la diminuzione di valore dei titoli di Stato che le imprese assicurative hanno nel loro portafogli a garanzia degli impegni con gli assicurati. Noi sappiamo tutti cosa vuol dire la crisi del debito sovrano, che ha colpito particolarmente i titoli italiani. È evidente che anche noi risentiamo di questa situazione e conseguentemente il settore assicurativo è fortemente interessato a una ripresa delle quotazioni dei titoli di Stato, che vuol dire diminuzione dello spread che intercorre tra Bund tedeschi e i titoli pubblici italiani, i BTP italiani. Tutto questo, se si risolverà nel corso del 2012, assisteremo ad un miglioramento dell'andamento economico dell'impresa e noi siamo fortemente impegnati a realizzarlo. Grazie ad Aldo Minucci, presidente dell'ANIA, che è l'associazione che raccoglie le imprese assicuratrici, e buonasera. Grazie a voi, arrivederci. Di nuovo buonasera da Simone Spezia. 349-238-6666 per i vostri sms, parecchi ne stanno arrivando. A proposito della questione assicurazioni, ci fate notare innanzitutto, e più di un messaggio giustamente, che c'è il problema che non ci si può assicurare all'estero. il che non sarebbe male per stimolare la concorrenza dall'altra parte. Poi sul tema delle carrozzerie convenzionate, ci scrivete, ho utilizzato un carrozzeria delle assicurazioni, la macchina è stata fatta malissimo perché li sottopagano, mentre invece, ci scrive un altro ascoltatore, le carrozzerie convenzionate gonfiano prezzi e preventivi, e non vi scrivo dalla Campania ma dal Veneto, quindi parecchio lavoro da fare. Del resto anche su questo c'è stato un richiamo abbastanza esplicito dello stesso presidente dell'ISVAP. Veniamo ai mercati. Un'accelerazione nel finale, come si diceva, un più 1,30% sul FTSE MIB, un più 1,38 sul FTSE All-Share. Livia Zancaner, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. A che cosa lo dobbiamo? Sì, allora, i mercati oggi hanno scommesso sull'adozione di nuove misure di stimolo all'economia da parte delle banche centrali, in particolare l'accelerazione sul finale di sedute è stato poi trainato dal buon andamento di Wall Street, dove il Nasdaq ora viaggia in rialzo dello 0,77% e il Dow Jones dello 0,56%, è arrivato anche un buon dato dagli Stati Uniti, dove gli ordini all'industria sono cresciuti nel mese di maggio dopo due mesi di calo e sono cresciuti più delle attese. La questione della, come dire, dell'ingresso della politica economica sui mercati, se così possiamo dire, ossia la spending review, ci sono delle utilities che vanno male perché è circolata un'ipotesi di blocco delle tariffe, in realtà poi smentita o no? Sì, in realtà il premier Mauro Monti ha detto di essere contrario all'inserimento appunto della norma sul blocco delle tariffe di acqua, luce, gas e trasporti per 18 mesi nel decreto sulla spending review. In ogni caso i titoli delle utility a Milano hanno sofferto comunque dell'ipotesi dell'indiscrezione stampa di oggi. Snam ha perso il 2,4%, Terna l'1,5% e Atlantia lo 0,68%. Questo è il quadro, e venendo ai titoli in positivo, abbiamo fornito poco fa i dati sulle immatricolazioni di Fiat Chrysler negli Stati Uniti, che sono veramente ottimi, e anche in forza di questo il titolo Fiat festeggia un più 5,09%. Sì, infatti il titolo Fiat è stato il migliore sul paniere principale, seguito dal titolo dell'azionista Exor, che ha guadagnato il 4,80%. Il lingotto ha beneficiato, come dicevi tu, infatti delle vendite record segnate a giugno negli Stati Uniti dalla controllata americana Chrysler, e anche della notizia dell'incremento della partecipazione da parte di Fiat in Chrysler al 61,8%. Ricordiamo invece che ieri sono state comunicate le immatricolazioni in Italia a giugno, che hanno mostrato un nuovo calo del 23,4% a fronte di un meno 24,4% registrato dal mercato. Mi sembra che l'intonazione generale del mercato comunque sia positiva, e nel complesso, Olivia, senza un tema particolare che abbia dominato oggi, no? Sì, in effetti sì, perché cioè nessun settore, dico, utilities sì, a parte. Sì, infatti, a parte l'utility, che in Europa comunque hanno chiuso sulla parità registrando un balzo dello 0,46%, il sentiment è stato comunque positivo su tutti i comparti. Ricordiamo ad esempio il settore auto, che ha guadagnato il 2,5%, gli energetici, che hanno guadagnato l'1,7%, e il comparto materie prime, che ha balzato del 2,3%, quindi in sostanza una ventata di ottimismo sulle borse, in attesa appunto in particolare della riunione della BCE in calendario per giovedì. Anche oggi giornata positiva per il settore cementiero e quindi per Buzzi in Italia. Sì, infatti Buzzi, cioè, ha beneficiato del buon andamento del comparto in Europa. Buzzi ha guadagnato il 4,2% a Milano, ricordiamo anche la Farge, che a Parigi è balzata di oltre l'1% dopo aver annunciato il ritorno al mercato obbligazionario con emissione di 500 milioni di euro, e anche Heidelberg Cement a Francoforte ha guadagnato oltre l'1%. Tra i piccoli titoli ci sono cose da segnalare? Storie da segnalare? Sì, possiamo ricordare ad esempio sempre nel comparto utility un titolo che si è mosso in controtendenza. Acegas ha guadagnato il 4,70% in attesa di una fusione con ERA. Ieri infatti il sindaco di Bologna, Virgilio Merola, si è augurato che l'operazione possa andare a buon fine, quindi il mercato ci scommette su una fusione. Bene, anche oggi tra quelli un po' più piccoli, Meridiana Fly. Sì, Meridiana Fly ha guadagnato sul listino il 4,40%, c'è stata una notizia positiva, cioè il via libera delle banche, riscadenziamento del debito a febbraio del 2013. La società ha infatti comunicato che le decisioni prese saranno oggetto di un accordo tra le banche e la società che sarà siglato entro il 31 luglio 2012. Grazie. Ah no, Livia, un ultimo titolo, perdonami, che è Mediaset, che è andata male per tutta la seduta, poi lievemente migliorata mi sembra sul finale, ma un po' come tutto il listino, meno 0,28%. Che cosa è successo? Sì, allora ieri Mediaset ha presentato i palinsesti autunnali, ha indicato che nel primo semestre la raccolta pubblicitaria registra una flessione del 10%, un dato che però sostanzialmente è in linea ai primi tre mesi dell'anno. Il gruppo non ha fatto previsioni in merito alla raccolta sull'intero 2012, ma ha detto che l'anno in termini di raccolta sarà comunque negativo, quindi questo probabilmente ha influenzato sulla performance del titolo. Grazie a Livia Zancaneri di Radio Cori Il Sole 24 Ore, buonasera. Grazie a voi, buonasera. Un quadro finale su tutti gli altri titoli, come si diceva, tra i negativi Snam giù del 2,4%, Terna dell'1,48%, negativa anche Campari dell'1,3%, così come Generali, e Atlantia che cede lo 0,68%, giù anche Enel di mezzo punto percentuale, Enel Green Power dello 0,4%, così come Telecom Italia. Negativa Mediaset, l'abbiamo detto, Lottomatica anche qua dello 0,26%, Ansaldo dello 0,18%, Banco Popolare dello 0,10%, in pregilo, in perfetto pareggio. Tre titoli in positivo, oltre a Fiat ed Exor, dei quali abbiamo detto, Azimut in guadagno del 4,26%, Buzzi Unicem del 4,2%, Tenaris del 3,5%, Pirelli del 3,3%, così come Eni, Fiat Industrial del 3,18%, Parmalat del 2,7, del 2,6 la Popolare di Milano, Prismian e Unicredit, del 2,5 di Asorin, Saipem più 2,37% e Intesa San Paolo su del 2,2. Bene anche Salvatore Ferragamo che guadagna 1,5% percentuale, così come Mediolanum, A2A all'1,36, lo 0,8% sia ST Microelectronics che UbiBanca che TOTS, Mediobanca più 0,69%, il Monte dei Paschi più 0,4%, così come la Popolare Emilia Romagna, Autogrill più 0,28%, infine Finmeccanica più 0,06% e Luxottica più 0,04%. Euro in netto rafforzamento in questi ultimi minuti anche a 1,26,19 contro dollaro, spread che si attesta intorno ai 411 punti, la differenza di rendimento tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi. Prima di parlare della scomparsa di Sergio Pininfarina, alcuni aggiornamenti che arrivano in questi minuti dalle agenzie e che riguardano la famosa inchiesta di Trani su le agenzie di rating. Da alcune intercettazioni che stanno emergendo in queste ore, alcuni analisti di Standard & Poor's si erano lamentati di non avere la capacità di azioni di rating sull'Italia, anche a causa della carenza del personale esperto. A dirlo in un'intercettazione sarebbe stata la stessa responsabile di Standard & Poor's per l'Italia, Maria Pierdicchi. E ancora dalle intercettazioni emerge un racconto secondo il quale l'ex premier Silvio Berlusconi già ad agosto 2011 avrebbe pensato ad andare al Quirinale per la formazione di un governo tecnico. Si parla anche di errori nel taglio del rating degli Stati Uniti. Questo è il quadro che sta emergendo dall'inchiesta di Trani, della quale ovviamente vi abbiamo già ampiamente raccontato, sulle agenzie di rating. Adesso passiamo appunto a parlare della scomparsa di Sergio Pininfarina, morto questa notte uno storico carrozziere torinese che tutti conoscete, nato appunto proprio in provincia di Torino l'8 settembre del 26, era tra l'altro senatore a vita, nominato da Carlo Azeglio Ciampi il 23 settembre del 2005 e presidente di Confindustria dall'88 al 92. Saluto Giuseppe Berta, che è storico dell'economia all'Università Bocconi di Milano, editorialista della Stampa. Buonasera, professor Berta. Le chiedo innanzitutto un ricordo, un racconto del personaggio. Io credo che Sergio Pininfarina si sia proprio posto allo snodo di una tradizione, anzi di due tradizioni che lui in qualche modo ha impersonato. Innanzitutto era l'erede di Pinin, uno dei personaggi mitici, no, del mondo delle carrozzerie torinese, uno di quegli operai che venivano dal mondo del lavoro, erano gli operai provette, i battilastra, quelli che sapevano con l'uso del martello delle proprie mani fare dei prodotti bellissimi, erano quelli che dicevano di se stessi di saper fare i baffi alle mosche, per dire come erano bravi nel lavoro di precisione. E però ecco, questa tradizione che veniva appunto dal mondo delle carrozze, i carrozzieri, ecco, si è poi fusa con il sistema dell'automobile ed è evoluta in design industriale, ed è evoluta negli stilisti dell'automobile. Ecco, Sergio Pininfarina, che era il figlio di Pinin, era però, come dire, appartiene alla generazione di coloro che hanno mutato il mondo dei carrozzieri e l'hanno trasformato nella ricerca dello stile attuale. Gli altri nomi che possiamo e dobbiamo associare sono certamente per un verso quelli di Nuccio Bertone, che era più vicino alla sua generazione, e poi di Giorgio Giugiaro, che ha una storia diversa perché nasce come un disegnatore tecnico, prima alla Fiat e poi alla Bertone. È proprio questo momento di passaggio che Sergio Pininfarina ha vissuto e gestito, cioè dal mondo dei carrozzieri, dal mondo delle fabbriche, dal mondo del lavoro manuale provetto, al mondo di chi progetta col computer. È in questo senso, professor Berta, che sono condivisibili le parole del presidente di Confindustria Squinzi, che dice che è un simbolo che se ne va. In questo senso, intendo nel senso industriale, ma anche nel senso di simbolo del Made in Italy. Simbolo del Made in Italy, ma anche, mi lascio aggiungere, simbolo di un'Italia industriale che oggi non c'è più. Era il mondo, diciamo così, dell'avvocato Agnelli anche, no? Era una Confindustria molto diversa dall'attuale. Sergio Pininfarina è stato presidente della Confindustria dall'88 al 92, prima ancora era stato la guida dell'Unione Industriale di Torino, era stato, vorrei ricordarlo, lui il presidente dell'Unione al momento della fatidica svolta del 1980 alla Fiat, cioè era un mondo torinese che si muoveva in stretta simbiosi, un mondo che appunto aveva il suo perno, il suo centro nell'automobile, e che non è, anche qui faccio una battuta molto facile, mai avrebbe immaginato di non essere in Confindustria, ecco, diciamo così. Questo per quanto riguarda quel mondo torinese, è quel mondo torinese che, come dire, sta scomparendo, comunque si sta allontanando da Torino anche per altri motivi, professore. Non c'è dubbio. Sergio Pininfarina è stato l'ultimo esponente di questo mondo, la generazione dell'avvocato. Lui era un po' più giovane, era nato appunto, come avete ricordato, nel 26, l'avvocato era del 21, ma veniva dal medesimo Vito Terra, ecco, era un mondo che si muoveva in stretta consonanza, un mondo che anche aveva una sua concezione dei rapporti tra economia, politica e istituzioni. Come lei ha detto, è stato fatto senatore a vita da Ciampi, ma prima aveva svolto un'attività politica come parlamentare europeo, come liberale nel Parlamento europeo, cioè era una visione molto classica, diciamo così, dei rapporti tra economia, politica e istituzioni, che mi sembra in questo momento ormai del tutto dissolta. Grazie al professor Giuseppe Berta, storico dell'economia all'Università Bocconi di Milano, editorialista della Stampa, per essere stato con noi e per questo ricordo e ritratto di Sergio Pininfarina. E buonasera, professore. Buonasera. E adesso noi cambiamo argomento e passiamo a parlare della Spending Review. Presidente del Consiglio Mario Monti chiarisce nell'incontro con le parti sociali che cosa si intende fare con questi tagli di spesa. Non è una nuova manovra, dice, ma un'operazione strutturale per evitare che si aumenti l'IVA e per farlo servono 4,2 miliardi. Perché oltre alla questione dell'IVA si sono aggiunte due esigenze, gli esodati e il terremoto, che rendono la cifra più alta. I tagli serviranno a eliminare gli sprechi senza ridurre i servizi, dice Monti. Dunque, sentiamo una delle reazioni, innanzitutto quella di Luigi Angeletti, segretario della UIL. Questo incontro, insomma, non vi ha soddisfatto? No. Totalmente contrario a quello che vi ha detto il governo? No, noi temiamo una cosa molto semplice, che la cosa che invece sulla quale sono stati molto precisi è stata quella di dire che comunque ci devono essere 10% in meno dei dipendenti pubblici. E ovviamente quando gli abbiamo chiesto bene, noi siamo disposti a discutere, e a quel punto loro si sono rifiutati e questo ovviamente ci fa temere che alla fine siano banalmente e semplicemente dei tagli lineari. Avevano dato dei tempi, non so, a questo taglio degli statali, quando ci dovrebbe essere? No, loro hanno detto che avrebbero fatto delle valutazioni sulle varie amministrazioni e poi avrebbero detto l'esito di queste valutazioni. Andrete verso lo sciopero se vengono confermati questi tagli che vi ha detto oggi il governo? Sicuramente se alla fine il decreto dovesse essere semplicemente lo strumento per fare dei tagli lineari solo sui dipendenti, non credo che si possa evitare. Le 18 e 8 minuti, di nuovo buonasera da Simone Spezia, benvenuti a questa seconda parte di Focus Economia, 349-238-6666 per i vostri sms. Oggi il giro di incontri del governo, ed è di questo che stavamo parlando prima di chiudere la prima parte della trasmissione, sul spending review, ossia sul taglio delle spese. Enti locali che hanno reagito abbastanza duramente, dice il presidente della regione Lombardia Formigoni, il governo pensa di tagliare su sanità e trasporti, è inaccettabile. Ma come si diceva, reazioni dure anche dai sindacati. Abbiamo sentito poco fa Luigi Angeletti che non esclude la possibilità di uno sciopero, così sempre al microfono di Elisabetta Fiorito, la leader della CGIL, Susanna Camusso. Abbiamo trovato un governo che è stato reticente e criptico nel dire che cosa intende mettere nel provvedimento che farà venerdì. Questo ci ha molto preoccupato, devo dire che ci pare un metodo sbagliato, anche perché noi siamo in presenza di un accordo fatto il 3 maggio col ministro della pubblica amministrazione che doveva riguardare tutte queste cose, e allo stato non riusciamo nemmeno a capire se quell'accordo verrà applicato e tradotto in legge delega così come doveva essere oppure no. Vorrei dire che se è condivisibile l'idea del governo di non andare all'aumento dell'IVA, bisognerebbe anche dirlo strutturalmente, non solo rinviarlo a gennaio del 2013, così come è giusto ragionare sul fatto che bisogna intervenire in tanti punti in termini di riforma della pubblica amministrazione. Le ricette che però hanno offerto sembrano tanto un taglio lineare, nel senso che l'unico numero concreto che è stato dato è quello dell'intenzione di tagliare del 20% i dirigenti, peraltro i dirigenti assunti a concorso, perché quelli a chiamata diretta non vengono invece citati tra i tagli che ci devono essere, e il 10% invece degli impiegati o del personale ordinario della pubblica amministrazione. Questi sono stati gli unici numeri dati, su tutto il resto si sono dichiarate delle intenzioni, alcune anche condivisibili, accorpare i piccoli enti locali, procedere alla definizione di quali sono le province da accorpare, quali sono quelle da mantenere, però la genericità delle tante indicazioni e la concretezza invece dei numeri solo sul personale ovviamente ci preoccupa. Beh, in parte a dire il vero era quel che ci diceva ieri il professor Dell'Aringa, perché ok tagliare i dipendenti pubblici, ci diceva il professor Dell'Aringa, ci sono i margini, e però bisogna anche lavorare sulla riorganizzazione del comparto pubblico se si decide di fare una scelta di questo genere. Tra l'altro Susanna Camusso conferma che si sta ipotizzando una deroga alla riforma delle pensioni per poter prepensionare gli statali per un periodo che va fino al 2013. Infine chiudiamo il giro dei sindacalisti col segretario della CISL, Raffaele Bonanni, sempre al microfono di Elisabetta Fiorito. Ci hanno detto che vogliono ridurre del 20% nella pianta organica i dirigenti e il 10% di lavoratori, diciamo così, esecutivi. Il problema nostro è cosa vogliono fare nella ristrutturazione delle regioni, dei comuni, delle province e delle istituzioni. È perché da lì che si capisce il numero delle persone eccedenti e non al contrario. Quindi per noi il giudizio che daremo lo daremo quando verificheremo se il taglio lineare che vogliono fare è quello solito per liberarsi di un po' di persone e risparmiare qualcosa, oppure vogliono ristrutturare la macchina amministrativa e istituzionale italiana, che è la cosa più naturale che dovrebbe avvenire. E io spero che entro venerdì loro diano chiari segni di ristrutturazione della macchina, altrimenti non stanno facendo nessuna operazione. È filtrata dall'accordo che abbiamo fatto col governo, che io spero non si rimangi. Quindi il mio giudizio è sospeso fino alla decisione finale che prenderà il governo, che io spero si muova in direzione di una ristrutturazione prima delle amministrazioni e poi si vede quanta gente serve. Parla invece di buon inizio il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi. A quanto si apprende al tavolo con il governo, ha detto sostanzialmente un buon inizio, Confindustria condivide, ma dobbiamo valutare nel dettaglio le misure. Questo dal lato dunque della politica economica. Noi torniamo però adesso a parlare di finanza e dello scandalo che sta travolgendo le banche britanniche. Scandalo del quale vi stiamo raccontando da giorni, ed è questa manipolazione avvenuta da parte di una serie di banche britanniche del tasso Libor, che è, per farla semplice, il tasso con il quale le banche si prestano il denaro l'una con l'altra, ma in realtà fa da base per migliaia, milioni di altre operazioni finanziarie. Mutui compresi, naturalmente. Ed è stata una manipolazione al ribasso, a quanto pare iniziata nel 2007, le cui prime avvisaglie si sono avute nel 2008, su questo aveva aperto un'indagine all'autorità americana. Adesso sta venendo fuori tutto e l'amministratore delegato Diamond di Barclays, l'amministratore delegato di Barclays, è l'altra testa che è saltata dopo quella del presidente Agios, che è saltata ieri. È saltata anche la testa del direttore generale di Barclays, Jerry Delmissier. Spero di aver pronunciato bene, perché è un misto tra inglese e francese apparentemente. Lo chiedo a Leonardo Maisano, corrispondente del Sole 24 Ore da Londra, che è in collegamento con noi per fare il punto su quest'ennesima giornata difficile, per così dire, per le banche inglesi. Leonardo, buonasera. Buonasera a voi. È giusto, Delmissier? È giusto, benissimo. Si diceva Citi in fermento, ma non solo, anche mondo politico britannico in fermento per questa vicenda che è l'ennesimo scandalo in ambito bancario che avviene, naturalmente non facciamo riferimento solamente all'Inghilterra, ma a livello globale. Leonardo, ieri ci si chiedeva questo. Ma insomma, le prime avvisaglie ci sono state nel 2008. Le autorità americane su questo hanno iniziato appunto ad indagare nel 2008. Non sono stati un po' lunghi i tempi? Anche là nel Regno Unito ci si chiede qualcosa su questo? Ma i tempi sono stati lunghi, ma forse era anche in parte inevitabile. Adesso 4 anni sono tanti. I 4 anni erano arrivate le prime voci, poi andavano accertate, c'erano coinvolte le autorità che regolano i mercati di diversi paesi, ci sono giapponesi, americani, svizzeri, europei e naturalmente gli inglesi. Quindi la procedura è lunga, e possono esserci state anche delle responsabilità. Il punto chiave è che una volta che questa cosa è emersa, secondo quella che è la tradizione, come dire, anglosassone, e soprattutto inglese, quando la cosa emerge e diventa oltretutto un fatto con una rilevanza politica, perché ci sono, come dire, dei contribuenti che non solo hanno salvato le banche inglesi, ma che in più si sono trovati a dover pagare dei mutui più alti perché il tasso di riferimento, il LIBOR, veniva manomesso per ragioni diverse. Quindi c'è una ricaduta nell'interesse del cittadino che si identifica poi con la sua constituency politica diretta. Questo ha portato lo scandalo a un livello immediatamente più alto, e a questo punto l'inchiesta parlamentare è certo che sarà assolutamente radicale. Mi stupirebbe se così non fosse, perché questa è la tradizione inglese, nel senso che quando una cosa arriva a quel punto viene esplorata fino in fondo. Tra l'altro è notizia di poco fa che c'è un memo svelato da Marcus Agius, il presidente di Barclays, rientrato con l'uscita di Bob Diamond, in cui risulta che ci sia stato un colloquio tra uno dei regolatori, il membro del Comitato di Politica Monetaria della Banca d'Inghilterra, uno di quelli che fissano i tassi di interesse per intendersi, e Diamond, in cui questo avrebbe comunque detto che loro tenevano un tasso di riferimento dell'LIBOR eccessivamente alto. Da qui la linea di difesa della banca è, come dire, noi abbiamo agito un po' su spunto dei regolatori. Accusa pesantissima che va direttamente nel cuore dell'establishment inglese. Bisognerà vedere quali saranno le reazioni a questa come dire, suggerimento o individuazione di responsabilità terza. Può darsi che in realtà, come dicono loro, si sia trattato di un equivoco: uno abbia voluto dire una cosa e quegli altri hanno preso la palla al balzo per interpretarla in modo estremo e totale. No. È una notizia appena uscita, sì. Va valutata. Mi sembra indubbio, Leonardo, che tutto questo porterà a nuove regole. C'è già qualche orientamento che è arrivato dal cancelliere dello scacchiere Osborne o dallo stesso Cameron? Beh, c'è la volontà di ripensare radicalmente anche a queste regole che determinano i meccanismi dei mercati finanziari. Non dimentichiamoci che dal credit crunch in poi l'Inghilterra è l'unico paese che ha fatto partire una revisione radicale sul sistema bancario locale, che porterà nel giro di poco tempo, di qualche anno, alla divisione tra le attività di investment banking e retail. Questa cosa è un disegno di legge che dovrebbe essere varato immediatamente dopo l'estate e che certamente verrà inasprito alla luce di quanto sta succedendo ora. Grazie a Leonardo Maisano, corrispondente del Sole 24 Ore da Londra, per essere stato con noi. E noi chiudiamo questa pagina con un ottimo file pescato dalla nostra Barbara Bianchi. È un file di un anno fa. E a parlare è proprio l'adesso ex amministratore delegato di Barclays, Diamond, che appunto ha lasciato il suo incarico oggi e parla, pensate un po', del rapporto di fiducia tra banca e clientela e del fatto che i banchieri devono essere buoni cittadini. Soon after the financial crisis of 2008, I was at a meeting in Washington with a group of US senators. Subito dopo la crisi finanziaria del 2008 sono stato invitato a un incontro a Washington con dei senatori americani per dare un nuovo punto di vista sulle attività di regolamentazione per evitare che si ripetessero gli eventi del 2008. A quell'incontro uno dei consiglieri economici della Casa Bianca mi ha domandato: «Pensa che i banchieri possano essere buoni cittadini?» Prima che potessi rispondere, lui ha aggiunto che, se avessi risposto sì, nessuno mi avrebbe creduto. Ho riflettuto molto e vi spiego perché la risposta a quella domanda deve essere sì. La cosa più importante per banche e imprese è creare occupazione e crescita economica. Per fare questo c'è bisogno di noi, delle banche. La ricostruzione della fiducia, distrutta da quanto accaduto negli ultimi 3 anni, richiede che i banchieri siano cittadini migliori. Ecco perché da quando guido Barclays questo è diventata una delle priorità. I giovani sono stati particolarmente colpiti dalla disoccupazione. In questa situazione il settore privato ha l'obbligo di creare posti di lavoro e le banche giocano un ruolo fondamentale di sostegno. Ma per svolgere questo ruolo le banche hanno bisogno di un rapporto più costruttivo con i clienti, con i governi e con le autorità di regolamentazione. Per guardare al futuro è essenziale ricostruire la fiducia. Per riuscirci sono essenziali alcune cose. Dobbiamo accettare la responsabilità di ciò che non ha funzionato e, ancora più importante, dobbiamo imparare la lezione per diventare cittadini migliori. For what has gone wrong. And most importantly, we have to use the lessons learned to become better citizens. Forse servono maestri migliori per imparare lezioni di questo genere. Era appunto Bob Diamond un anno fa. Bob Diamond, protagonista di questo scandalo di manipolazione del tasso LIBOR. Sentiamo invece un audio di oggi, quello del cancelliere dello scacchiere britannico George Osborne. It's the right decision for Barclays. I think it's the right decision for the country because we need Barclays Bank focused. È la decisione giusta per Barclays. È la decisione giusta per il paese. Abbiamo bisogno che Barclays sia concentrata a sostenere la nostra economia e non distratta da vicende riguardanti i vertici. Spero anche che sia il primo passo verso una nuova cultura della responsabilità nel sistema bancario britannico. Sull'uscita di Diamond voglio dire che non è compito né del cancelliere, né del primo ministro, né di nessuno nel governo decidere chi guida una società privata. È stata una decisione del consiglio di Barclays. Ovviamente abbiamo avuto dei contatti con la banca, ma alla fine ha deciso il consiglio. Il mio compito è assicurare che le attività di Barclays siano concentrate sulla ripresa economica, sull'essere una banca forte, sul giocare un ruolo nel processo di cambiamento di cultura del sistema bancario. Le dimissioni di Diamond sono un primo passo verso questo cambiamento di cultura e verso una nuova era di responsabilità. Ora vogliamo che il consiglio di Barclays arrivi ad avere un amministratore delegato forte e capace. We want now the board to undertake the proper process of finding a really good chief executive. Ecco qua, l'ennesimo annuncio di una nuova era. Speriamo che stavolta sia la volta buona. Noi, prima di chiudere, andiamo a sentire qualche passaggio dell'intervento del Presidente del Consiglio, Mario Monti, che oggi è andato in aula al Senato a riferire degli esiti del vertice europeo. Ha detto: c'è stata un'inversione di rotta rispetto ad un passato nel quale le risposte politiche erano state tardive e insufficienti. È un passo verso l'Europa che vogliamo. In passato la parola crescita non aveva spazi e adesso ce l'ha. L'Europa non può rappresentare solo un'autorità dotata di poteri di integrazione negativa, un corsetto di regole, meccanismi di allerta, procedure di monitoraggio e sanzioni. L'Europa deve anche essere un vettore, un motore di integrazione positiva che stimola gli Stati membri, apre speranze, propone soluzioni comuni. Da questo punto di vista possiamo dirci soddisfatti dei risultati di questo Consiglio europeo. È stato raggiunto l'accordo su un patto per la crescita e l'occupazione che completa il Fiscal Compact e contiene una serie di iniziative che daranno un sostanziale stimolo all'attività economica e alla creazione di posti di lavoro in Europa. Qualche trimestre fa la parola crescita aveva difficoltà a trovare cittadinanza nei documenti dell'Unione Europea. Questo patto mobiliterà 120 miliardi di euro, pari all'1% del prodotto interno lordo europeo, al servizio degli investimenti, delle imprese e dell'occupazione, in particolare dei giovani e delle donne. Ed è tutto per questa puntata di Focus Economia. Un ringraziamento come sempre a Barbara Bianchi e Mauro Del Corno in redazione, Paolo Corleoni in regia. Un grazie a tutti voi per l'ascolto da Simone Spezia. Ci risentiamo domani dopo il giornale radio delle 17:00.